Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mancano due giri. Sono stanchissimo, ma tiro fuori quello che non c'è. Salto l'ultima riviera. Un piede in acqua, l'altro fuori, pronto a scattare verso l'ultimo ostacolo. E poi lo sprint, disperato, degli ultimi 50 metri. Non cado a terra. So di avere fatto bene. Ora devo solo aspettare la sentenza. Sono Luigi Del Buono, da Ancona. Faccio il programmatore di computer, l'atleta semiprofessionista e musicista. Queste passioni mi danno equilibrio e mi fanno stare bene giorno per giorno. A tanto così. Avete presente quella sensazione lì? Quando vi siete preparati, vi siete allenati, siete sostanzialmente sul pezzo, avete la gara davanti, avete un obiettivo da raggiungere. Non si parla solo di sport, si parla di lavoro, si parla d'amore, si parla di studio. Arrivate a tanto così e poi se ne va. A tanto così, proprio per pochissimo, eppure non ce la fate. 349-238-6666. Un obiettivo sfuggito a tanto così, è capitato a tutti nella vita. È capitato a Marco, ad esempio, che parla della maturità, parla dei 60 sessantesimi quando c'erano. Adesso sono 100, giusto? Sono 100 centesimi. Il professore di italiano aveva escluso che io ce la potessi fare, perché se nelle altre materie ero un fulmine di guerra, nei temi non ero troppo bravo. E io difatti neanche ci pensavo. Lui però non fu in commissione e il mio compito piacque moltissimo al commissario. A quel punto, da bravo secchione, per cui o tutto o niente, ci sperai. Uscirono i risultati 58. So che è stupido e infantile, so che il valore di una persona è troppo grande per essere misurato con un numero, ma quel voto, a quel tempo, era ciò che per un ciclista è il Tour de France. E non potei neanche dire, ok, dai, non pensiamoci più, perché furono parenti e amici durante tutta quell'estate a ricordarmelo. Ma come? Ma non ti hanno dato 60? Ma perché? Forse fu questo, più che il voto, che mi bruciò davvero. A tanto così, proprio quando siete arrivati a 58, ma guarda, ti dirò, Marco, neanche a 58, a 59 sessantesimi, eh? E tra l'altro quello che dice Marco è giustissimo, cioè lui dice: so che è stupido, so che il valore di una persona è troppo grande per essere misurato in un numero, ma è esattamente quello di cui stiamo parlando. Sappiamo tutti che il valore di una fatica, di uno sforzo, il valore di una persona non si possono misurare in numeri. Quando però ci sono delle soglie, cioè ci sono dei limiti, da quello non si può prescindere. 349-238-6666. Visto che lui parla di ciclismo e di Tour de France, nella seconda parte avremo ospite il ciclista che in Italia ha vinto più di tutti, il terzo al mondo, l'aveva vinto più di tutti, ed è Francesco Moser. Io me lo ricordo benissimo, perché quando io ho cominciato a guardare il ciclismo da ragazzino, Moser vinceva tutto. Cioè, sì, ancora i grandi miti erano Coppi e Bartali, però in TV c'era solo Moser. E c'era la solita gara, no? A due, dai tempi di Coppi e Bartali, c'è sempre stato un dualismo, e all'epoca di Moser erano lui e Saronni. Sì, però lui ha vinto. Non perché ce l'abbiamo dopo, ce l'abbiamo in diretta, però lui ha vinto molto di più di Saronni. O sbaglio? No? Ma molto di più. 349-238-6666. A tanto così. Vi sarà capitato, no? Di arrivare a tanto così. Aurora scrive: sempre vincente in palestra, in combattimenti di judo e in gara con le stesse avversarie, argento. Questa però, questa è una questione più che di capacità, probabilmente solo di concentrazione o di... Boh, non lo so, però è vero che si dice, no, che l'allenamento e la gara sono spesso, in qualsiasi sport, sono due sport diversi. 349-238-6666. Siete arrivati a tanto così? Beh, probabilmente mai come è successo a Luigi. Tutto nasce da un amore. La mia ex ragazza non mi dice nulla, ma alla mia richiesta di uscire un sabato sera risponde timidamente di no, perché l'indomani mattina partirà presto per andare ad una garetta podistica. Io mi faccio fregare un paio di volte, alla terza la seguo. Vado a letto presto e mi presento anch'io alla gara podistica. Decimo posto e tempo lusinghiero per un neo corridore della domenica. A nulla era servita la partecipazione di mio padre alle Olimpiadi di Città del Messico del 68 e di Monaco 72 per convincermi che era l'atletica la mia cosa. Mio padre, Gianni Del Buono, è stato un olimpionico, quindi un atleta di altissimo livello, livello internazionale, è partito da zero senza avere particolari caratteristiche fisiche. Da lì è arrivato fino a partecipare a due Olimpiadi, Monaco 72 e Messico 68. Papà mi aveva portato sin da bambino al campo, ma io scelsi il calcio. E arrivato al momento in cui c'era da fare sul serio, mi rispedirono dalla squadra primavera della mia città, Ancona, a una squadra di prima categoria. Il sogno calcistico era infranto, ma questo nuovo stimolo stava affacciandosi nella mia vita. Comincio all'inizio con poca convinzione e poi sempre con più ardore, fino ad arrivare a buoni risultati, ma mai a un livello tale da riuscire a partecipare ai campionati italiani assoluti, dove ci sono i 10-15 migliori di ogni specialità. Aumento i chilometri, aumento l'impegno e nel frattempo la mia piccola sorella, a 16 anni, si laurea campionessa italiana tra le allieve. Cresce ancora di più il mio desiderio di partecipare a questa kermesse, visto che sono l'unico della famiglia non solo a non avere un titolo italiano, ma non avere partecipato neanche ai campionati. Scelgo l'obiettivo, 3.000 siepi. Una gara in cui bisogna essere forti, resistenti, acrobatici e veloci. Mi metto sotto, convinto che si possa fare. Devo correre in 9 minuti e 22 secondi per conseguire il minimo. Io lavoro, sono a casa da solo e il tempo è poco, ma non importa. Sotto i consigli di mio padre e giornate da cardiopalma supero l'inverno 2012 in ottima forma e mi appresto ad affrontare l'estate dove realizzerò il mio obiettivo. Sono convinto. Esordisco con un 9,40 che non mi soddisfa affatto. Guardo decine e decine di video per migliorare quanto più possibile, ma non provo troppi ostacoli. Sono convinto di potercela fare. Dopo alcune gare di preparazione su altre distanze, mi cimento di nuovo in una gara a Modena. Esco di fretta dal lavoro, viaggio, arrivo lì e faccio 9 minuti e 30 secondi. Contento del mio risultato personale e del miglioramento già sensibile nel salto degli ostacoli, mi rendo conto che il tempo stringe e che il 1 di luglio del 2012, termine ultimo per la realizzazione del minimo di partecipazione, è molto molto vicino. Sono convinto più che mai di valere il risultato, ma non ci sono gare di valore per raggiungere lo scopo. Posto così nel mio blog una richiesta di aiuto, indeciso sulla gara da fare. Sto bene, devo sfruttare il momento. Mi risponde Fabio, segnalandomi la gara di Roma che si sarebbe svolta al fresco della sera il giorno seguente. Io non esito un secondo, alle 6.30 del giorno dopo parto per la capitale. Mi riposo tutto il giorno in un bed and breakfast di Ponte Milvio, cercando di recuperare tutte le energie possibili. Esco al tramonto e vado al campo. Mi iscrivo pagando una sovrattassa e poi sono già sulla linea di partenza. È il momento di essere coraggiosi. Ci vuole un passaggio ai 1000 metri audace. Parto e seguo i ragazzi dei corpi militari, pagati per fare il mestiere che io amo tanto. Passo a 1000 metri in tabella perfetta, 3 minuti e 02. È fresco, si sta bene, ma la crisi arriva comunque. Stasera però è la mia sera e non posso sbagliare. 6.14 ai 2000, perfetto. Basta mantenere il ritmo e accelerare leggermente sul finale e i campionati italiani sono miei. Affronto la Riviera con un vigore mai visto, una convinzione olimpica e il risultato mi spinge. Mancano 2 giri, sono stanchissimo, ma tiro fuori quello che non c'è. Salto l'ultima Riviera, un piede in acqua, l'altro fuori, pronto a scattare verso l'ultimo ostacolo e poi lo sprint, disperato degli ultimi 50 metri. Non cado a terra, so di aver fatto bene. Ora devo solo aspettare la sentenza. Quei momenti sono momenti drammatici. Ti passa davanti tutto il periodo che tu hai dedicato a quella passione. Tutte le serate passate sotto la pioggia, sotto il vento, in ogni posto, a faticare solo per raggiungere quel risultato. In pochi minuti veramente ti giochi anni di impegno assoluto. Io non lo sapevo che il tempo minimo era 9 minuti, 22 secondi e 00, perché ho sempre voluto tenere lontano il cervello dalle soglie psicologiche. E così sapevo solo che era intorno ai 9 minuti e 23 secondi. Io però puntavo ai 9.19. Esce il mio risultato. 9 minuti, 22 secondi e 95 centesimi. Alessia, una marchigiana come me, dice di avere il cellulare nel borsone in tribuna e mi chiamerà per sapere se ce l'ho fatta. Spero che il minimo sia 9.23. Spero ed è fatico. Giro il campo ed è fatico. Arrivo ai piedi della tribuna. Alessia mi grida: è 9.22.00. Mi dispiace. Si infrange il sogno e porta con sé tutti i sacrifici di un inverno. Arriva l'8 luglio 2012 e io sono davanti alla TV, tornato dal mare, a guardare i 3.000 siepi dei campionati italiani. C'è un'immagine che il racconto di Luigi ha rievocato nella mia mente che sembra perfetta per riassumere tutta la sua storia. È un fotogramma in cui il protagonista è Roberto Baggio. È una partita della nazionale, a un mondiale credo, o agli europei. Comunque si tratta di un torneo molto importante, partita di qualificazione, o dentro o fuori. Roberto Baggio, forse l'ultimo genio mai veramente compreso e apprezzato del calcio italiano, è ovviamente titolare di quella squadra. Insomma, non ricordo più la partita e non ricordo quindi nemmeno il risultato. Ricordo però che nei minuti finali la nazionale italiana è tutta all'attacco, quando in area fiocca un cross dalla destra che, se non ricordo male, è di Albertini. Baggio al volo calcia verso la porta. La palla esce di pochissimo al lato del palo e Baggio si dispera come tutti i suoi compagni. Si dispera come tutti gli italiani che stanno guardando quella partita. La storia però non si ferma lì, perché dopo essersi le mani nei capelli, Baggio le abbassa e le abbassa all'altezza del viso. Le tiene proprio davanti agli occhi, con i palmi rivolti uno di fronte all'altro, come ad indicare una distanza. La distanza ridicola che mancava perché la palla entrasse in porta. Lui non dice niente, fissa in silenzio le mani dritte davanti agli occhi, senza sapere che le telecamere lo stanno inquadrando, o senza pensarci. E mentre le telecamere lo stanno inquadrando, tutti a casa dicono quello che lui sta solo pensando, che è tanto così. Sarebbe bastato tanto così e quella palla sarebbe entrata. Sarebbe bastato tanto così e avremmo vinto. Per me quella faccia e quel gesto di Baggio vogliono dire proprio questo. Danno una forma all'incompiuto, al fallimento prima della realizzazione. A tanto così è il titolo ideale del racconto di Luigi, anche se il suo tanto così non è spaziale ma è temporale. Non sono 10 centimetri, sono 95 centesimi di secondo. 95 centesimi di secondo, sono un battito di ciglia. Sono lo spazio di un piede che corre. In quel tanto così ci sta dentro tutto il lavoro, tutta la fatica e la stanchezza. Quello che non ci sta dentro in quel tanto così, invece, è la speranza ed è la gioia di avercela fatta, perché non ce l'hai fatta. Per ottenere quelli bisognava probabilmente impegnarsi ancora di più, faticare e stancarsi ancora di più. La cosa più terribile del tanto così è che ti lascia la possibilità di recriminare, di amareggiarti per esserci arrivato così vicino. Voglio dire, se quella palla tirata da Baggio fosse finita 3 metri al lato della porta, nessuno ci avrebbe pensato più un secondo e quell'azione sarebbe svanita. Se il tempo di Luigi fosse stato superiore di 2 minuti al tempo minimo, sarebbe stato chiaro subito anche a lui, no? Che quella non era la sua gara. Il tanto così invece è balordo, è inopportuno, perché dimostra quanto sia giusto per noi quello che stiamo facendo, quanto non abbiamo sbagliato a scegliere di impegnarci e di dedicarci a quella cosa. Allo stesso tempo però dimostra anche che qualcosa è andato storto. E il fallimento non è mai solo una questione di centimetri o di centesimi. Il fallimento è sempre totale, anche se è solo una questione di centimetri. Perché, come diceva poi Re, il mio allenatore di calcio, il palo non è sfortuna. Il palo è un gol sbagliato. I Italia-Francia era quella partita. Grazie a tutti quelli che me l'hanno scritto al 349-238-6666. Era il 98, erano i mondiali del 98. Si giocava in Francia, si giocava a Parigi quella partita. Erano i quarti di finale. Italia-Francia, e alla fine li perdemmo ai rigori. Mi ricordo, li perdemmo con un rigore di Biagio. Sbaglio il rigore. Traversa di Biagio. Ma di Biagio? Ma come fai a far tirare un rigore a di Biagio? Ma cioè, ad una distanza lo può dire. Ma perché fai tirare di Biagio? Fu in Francia-Italia, qualcuno ci mette tra virgolette delle parole che ipoteticamente sono di Roberto Baggio. La colpì troppo bene e la palla non entrò. Roberto Baggio, l'uomo che ci ricordiamo nei mondiali degli Stati Uniti quando Sacchi lo cambiò perché fu espulso Pagliuca, doveva toglierne uno, tolse Baggio, lui disse con la telecamera che inquadrava: questo è pazzo. 349-238-6666, uno che è arrivato a tanto così. Luigi, ci è arrivato proprio a quanto? 98 centesimi, mi pare. Pronto, Luigi? 95. Pronto. Ciao, come stai? Ciao, Matteo. Bene, bene. Dove ti trovi adesso? Adesso sono a casa, che sono un po' raffreddato. Sto cercando di evitare di prendere un'influenza che fa saltare tutti i giochi, quindi oggi sono precauzionalmente a casa. Perché la notizia è che tu non demordi, cioè tu vai avanti. Assolutamente sì. L'anno, questo che sto facendo, lo sto facendo con l'esperienza dell'anno scorso, e quest'anno va sicuramente bene, proprio non ho dubbi. Ma guarda, io adoro questa roba che tu... Hai presente quelli che si toccano, fanno gesti scaramantici? Invece la tua convinzione che questo è il tuo anno, Luigi, e io ci credo da morire. Cioè, questo quale? 2013? Sì. Quindi, i campionati italiani quando sono? Sono, mi pare, 28 luglio e, quest'anno. E quando è la gara per capire se ci riesci ad entrare oppure no? Da maggio fino alla settimana prima si può conseguire il minimo in qualsiasi gara della federazione, quindi io vado però il picco di forma, sai, il picco di forma va ben studiato, perché poi arriva in un certo momento e poi magari ti lascia quando l'evento clou ti lascia, certo. Senti, quindi... ma ce l'hai nelle gambe sto tempo o no? Quanto è il tuo tempo? Il tuo miglior tempo qual è sui 3000 siepi? Quello 9:22:95. Ah, è quello lì. Ma è la soglia, sì, però qual è? Sempre 9:22? Adesso sì, ancora 9:22. Senti, però spieghiamo un attimo, Luigi, perché questa cosa non a tutti, primo io, infatti te l'ho chiesto prima fuori onda, non è chiarissima. Cioè, ai campionati italiani ci possono arrivare anche dei non professionisti, di fatto, perché tu fai il programmatore, fai un altro mestiere. Sì. Anche chi non sta nei gruppi militari e magari fa l'atletica magari studiando oppure lavorando, però magari ha un lavoro meno impegnativo, allenandosi potrebbe arrivare, cioè sono pochi. Cioè su quei 10-15 quanti lo fanno di mestiere? 12. Ah, ok, proprio una percentuale altissima. Siete in pochi quelli che insomma arrivano a tanto così facendo... Sì. Senti, invece, visto che ce lo dicevi, ce lo racconti tu, no? Che tu sei di fatto di famiglia, no? Tua sorella ha vinto i campionati italiani. E tuo padre, invece, io ho cercato. Gianni Del Buono è stato un atleta serio, insomma, si è fatto due Olimpiadi, ha vinto dei bronzi alle Universiadi, campionati europei indoor. Come la prende lui questa tua attività a 34 anni che vuoi entrare agli italiani? Mai forzato, mai spinto verso lo sport che faceva lui, anzi io ho fatto 16 anni di calcio prima dell'atletica e lui è stato sempre in disparte, e neanche quando ho iniziato si è proposto di allenarmi. Sono io che, facendo degli errori, sono arrivato alla conclusione che forse dovevo allenarmi in un altro modo. Certo, e allora l'ho coinvolto e lui mi ha dato dei consigli. Luigi, e poi ti devo salutare perché ho poco tempo, per capire quante volte ti alleni? 10, 11, 9, dipende dalle settimane, insomma. Ma tutti i giorni però ti alleni? Sì, tutti i giorni sicuro. Poi due volte al giorno per... più della metà della settimana, insomma. Luigi, in bocca al lupo davvero, sento che questo è il tuo anno, ci sentiamo, facci sapere come va a luglio, okay. Noi siamo in onda fino a giugno, luglio, e faccelo sapere, grazie ancora. Grazie. Ciao Luigi, in bocca al lupo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. 349-238-6666. Ha tanto così dal posto fisso in università. Seconda al concorso della vita. Annalisa. È appena uscito dalla Riviera, Luigi, nella foto che ci ha mandato, dove per Riviera si intende quella piscinetta che si trova appena dopo l'ostacolo dei 3000 siepi. È una bella giornata estiva, ci sono delle piante tipo pini marittimi alle sue spalle, quindi potrebbe essere o Ancona o Centro Italia, insomma, comunque è una zona estiva del Mediterraneo. La foto è scattata da terra, c'è il tartan in primo piano, dei giudici di gara un po' bolsi sulla sinistra, lui che esce dalla Riviera, un altro atleta alle sue spalle e lui sembra lanciato verso un grande 2013. Fallimento. Lo stato di insolvenza di un imprenditore. Fallimento fiscale, quello disposto dall'intendente di finanza per mancato soddisfacimento degli obblighi fiscali. Figurato, esito negativo, clamoroso insuccesso. Arcaico e letterario, sbaglio, errore. Etimo, derivato di fallire, data prima metà secolo XIV. Ecco, questa roba del fallimento che entra a gamba tesa di Alessandra dopo che ha augurato un grande 2013 a Luigi sembrava fatta apposta, invece non è così. Io sono convinto, contro ogni superstizione, contro la gente che tocca ferro, che sarà un grande 2013, e non solo per Luigi. Si torna a parlare di quella volta in cui siete arrivati a tanto così. L'hashtag anche per il profilo Twitter, se avete voglia di seguirci, e voi siete qui a R24, l'hashtag è ovviamente a tanto così, in 140 caratteri. Ultimo minuto, in ballo, promozione dalla seconda alla prima categoria. Noi siamo secondi a un punto, passa solo la prima in classifica. Punizione a giro, incrocio pieno. Sono passati 20 anni, ma quella parabola la vedo ancora. Giacomo. Però Giacomo, non ho capito se l'avete vinta o l'avete persa quella partita. Cioè, se il gol l'avete fatto o subito. Paolo, recupero crediti. Oggi sono uscite le percentuali e su 30% ho fatto 29.9. E allora, capisco che sei arrivato a tanto così, Paolo, ma non capisco da cosa. Cioè, immagino che il 30% sia la soglia per ricevere un premio, giusto? Tipo un premio produzione, no, mi sbaglio? Stavo per andare in tournée con i Nomadi, come backliner di Cico, il chitarrista. Backliner cos'è? Il backliner è quello che ti porta il cavo sul palco. Cioè, è il tecnico specializzato per uno. Per una questione di chilometri ho dovuto lasciare i 140 concerti a un altro. Visto che si parlava di sport e di arrivare a tanto così, noi abbiamo scelto una storia che conoscono tutti, va bene, ma è che non c'entra a tanto così. Un po' sì e un po' no. È la storia di Dorando Petri. È il 1908, siamo a Londra, alle Olimpiadi. Dorando Petri è italiano, sta facendo la maratona. Nessuno ci crede che lui possa arrivare, invece lui arriva. Sta vincendo, 100.000 persone allo stadio che lo inneggiano, lui arriva e ha un blocco, non corre più, lo aiutano ad arrivare, lui vince, poi però la vittoria gliela tolgono, ma ciononostante lui diventa famosissimo. Nel 1915, quindi 7 anni dopo, esce per lo Sport Illustrato, un inserto della Gazzetta dello Sport, un articolo scritto da Dorando Petri che racconta quegli ultimi metri prima dell'arrivo. La mia stanchezza cominciò mezzo chilometro dopo aver staccato Efferon. Appena in testa, ebbi forse il torto di aumentare l'andatura perché l'idea del trionfo mi aveva dato alla testa come lo champagne. Erano 10 giorni che nello stadium si svolgevano gare e corse, corse e gare, e mai il nome dell'Italia era stato annunciato vincitore. La nostra bandiera era sempre abbassata, quasi vergognosa. Dico la verità, affermando che in quel momento volli la vittoria soltanto per il mio paese. Per 100 metri mi parve di essere diventato più leggero. Era un inganno. Poco dopo mi sentii le gambe intorpidite. Dopo altri 500 metri mi parevano diventate di piombo. Anche le braccia mi facevano male per il lungo movimento fatto. La respirazione si era fatta assai difficile. Ormai correvo a bocca aperta come un principiante. Ma il fiato mi usciva a malapena e sentivo che il mio respiro era rauco. Dalla strada catramata battuta dal sole di luglio veniva su un odore che mi serrava la gola. Chiamai a raccolta tutta la forza della mia volontà e resistetti all'imperioso bisogno di fermarmi. Sapevo, per esperienza, che non ci si deve mai arrestare perché non si riparte più. La fermata taglia le gambe. Appena entrato nello stadium in cui si pigiavano 100.000 persone, il mio dolore alle gambe e ai polmoni raggiunse l'impossibile. Mi pareva che una mano enorme stringesse sempre più forte la mia gola. La mia testa era piena di vuoto. La mia volontà non mi serviva ormai più che a sprazzi. se non fosse stato così, non sarei caduto la prima volta a 300 metri dall'arrivo. Mi risollevai automaticamente e mossi ancora qualche passo. Non sapevo però se continuavo a marciare verso il traguardo o ritornavo sul mio cammino. Non ci vedevo. Dicono che cadi ancora altre 5-6 volte e che davo l'impressione di un paralitico che si avvicinasse alla sua poltrona. Io non ricordo più niente. La mia memoria si ferma alla prima caduta. Dai porturando corre fafie, prepere tamun per quel che da fer. Un passa alla volta tra i fosse di prei, in mezzo alla bassa, tra kerpe cures. Si chiamava Pietri, mi correggo, non Petri, si chiamava Dorando Pietri, era modenese, era di Carpi ed è diventato famoso nonostante di fatto non abbia vinto. C'è invece, come annunciavo all'inizio della trasmissione, anche i grandi campioni, anche quelli che hanno vinto tanto, anche a loro è successo qualche volta di essere arrivati a tanto così. È stato il caso, in pochissime occasioni, anche di Francesco Moser. Francesco Moser, buongiorno. Buongiorno. Grazie mille per essere qui innanzitutto. Mi sente? Sì, ci siamo. Sì, sento. Moser, lei insomma, è il ciclista italiano che ha vinto di più in assoluto e continua ad esserlo, giusto? Davanti a... Sì, come numero di vittorie. Come numero di vittorie davanti a Saronni e Cipollini. Scusi, questa roba della rivalità del ciclismo, per cui ci sono sempre stati dei dualismi e lei ce l'aveva con Saronni all'epoca, cosa nasconde dietro? Cioè, ci si parla tra rivali? Vi rivolgevate la parola? Eravate amici, nemici? No. No, eravamo nemici chiaramente, però dopo è chiaro che si parlava, perché poi c'erano tante occasioni per trovarsi anche in gruppo quando si viaggia per ore in sella e non è che sempre diciamo corsa a pancia a terra, ci sono dei momenti anche dove si chiacchiera, dove c'è tempo di dire tante cose, insomma. Non è che avevamo, come dire, preferivo parlare con altri per dire... Cioè non è che andavate a cena insieme, insomma? Beh no, qualche volta abbiamo cenato anche assieme perché ci trovavamo in giro per le corse, quando facevamo i circuiti degli assi, che adesso non si fanno più, si faceva la corsa assieme, dopo capitava che si andava a mangiare o prima o dopo assieme. Certo, anche. Certo, insomma c'era modo. Invece sì. Torniamo a questa cosa, la puntata di oggi, non so se è riuscito a sentirla, parla di un atleta che cerca di classificarsi ai campionati italiani e arriva a 95 centesimi, per cui ha tanto così veramente dall'obiettivo. Lei nel 77 vince il mondiale, giusto? In linea. Nel 76 l'ho perso per un metro, insomma, e nel 78 per 3 centimetri. Ecco, che cosa accade in quel momento in cui uno si rende conto che per veramente pochissimo uno si è giocato? Perché uno deve essere sempre, come dire, pronto a ogni evenienza, uno che fa lo sport e che può capitare che si vince per poco e può capitare che si perde, perché ne ho vinte anch'io corse per tanto così. Una gomma, certo. E una volta la vinci, una volta la perdi. Certo che il mondiale è un'altra cosa, io mi sono trovato due volte a far secondo al mondiale, poi ho fatto secondo anche alla Milano Sanremo e anche alla Parigi-Roubaix due volte. Sì, però insomma, però di Francesco Moser ci si ricorda perché vinceva, non perché arrivava secondo, no? Sì, sono altri perché, quelli no, che... No, perché di un corridore non si ricorda solo perché vince, si ricorda come corre, non è che perché ci sono corridori che hanno vinto ma però non vengono neanche ricordati quasi perché non hanno lasciato un segno nella storia, insomma. Certo. Che differenza c'è, mi perdoni, tra correre una gara contro degli avversari e correre una gara contro il tempo? Perché lei ha fatto diversi tentativi e ha vinto, e ha fatto il record del giro dell'ora. La differenza, allora, la cronometro, diciamo, in una corsa tappe, un cronometro individuale, tu hai degli avversari che sono lì quel giorno, quando corri, se parti dietro hai anche i punti di appoggio, sai come stanno andando, sai tante cose, insomma, o gli altri ne sanno su di te. Mm-hmm. Invece, non so, il record dell'ora c'è una media stabilita che bisogna battere, quella è un avversario che non è lino, ma che comunque lo devi battere, ma per fare un tentativo bisogna avere... grandi, come dire, possibilità di batterlo, sì. Altrimenti uno non si mette neanche. Se... Io ricordo, mi corregga se sbaglio, che io ero, perché io avevo una decina d'anni, lei vinse, batte il record dell'ora con una bici particolare, no? con delle ruote piene, o sbaglio? Sì, io sono stato il primo a costruire e a usare la ruota lenticolare. E la bici fatta in una certa maniera, perché fino a quel momento nessuno aveva le bici, diciamo, aerodinamiche, con la posizione in avanti più basso che dietro, già esistevano, l'avevano già adoperate anche i tedeschi, e noi abbiamo fatto un po' di più e si è trovato anche questo modo di costruire le ruote, perché il regolamento prevede che la ruota sia portante. Ho capito. Allora, quindi non è che potevi coprire i raggi, bisognava fare una ruota che stasse in piedi da sola. Chiaro. È stata fatta in fibra di carbonio proprio perché questo materiale consentiva di essere leggero, di avere la tenuta e di essere performante, insomma, tutte le caratteristiche, insomma, necessarie. Certo. E è stato anche, come dire, quando noi si è deciso di far questo, non avevamo neanche tanto tempo e abbiamo lavorato parecchio per... Immagino. Io purtroppo devo chiudere perché ho in coda programmi, altrimenti mi tagliano la testa. La volevo però ringraziare perché, nonostante appunto lei sia arrivato, abbia vinto tantissimo, insomma, ci ha raccontato di quante volte è arrivato anche lei a tanto così. Grazie mille, Francesco Moser. Salve. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a Francesco Moser, soprattutto grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina, a Paolino Corleoni. Grazie a Luigi, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Margherita, domani è la mia storia, anche se per poco, perché ho 90 anni, parla di libertà. Questa è la mia storia e io sono qui, almeno per ora.